A pane, burro, rock and roll, sono le 8 e un minuto primo. Benvenuti a voi che vi svegliate adesso. Pane, burro e rock and roll. Siete persi una gran prima ora, ma attenzione. La tua colazione rock. La seconda ora di diretta quest'oggi riserva grandi sorprese. In ascolta Rock Cafe. Intanto vi avviso subito di questa cosa. Qualche minuto fa abbiamo lanciato la nuova campagna di Pane, burro e rock and roll a favore di Ogni Santi. Mi riferisco a coloro che l'hanno sentita. È molto semplice il funzionamento. Facciamo gli auguri di buon onomastico a chi un santo vero proprio non ce l'ha. La lista di nomi utilizzata per queste campagne è stata fatta da Isaac Rizzi, il nostro redazionista, ok? Scattano subito le segnalazioni di nomi che abbiamo citato che un santo invece ce l'hanno. Avete capito il funzionamento? Nello specifico ci segnalano che Santa Berenice esiste e che anche Axel esiste. Quindi io chiedo aiuto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici: se nel corso delle campagne a favore di Ogni Santi riconoscete qualche nome che un santo ce l'ha, segnalatecelo e Isaac Rizzi ci darà 10 euro per ogni nome sbagliato. Siamo già a 20 euro, Isaac. E vai! No, guardi, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata? Eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Altani per lei. Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o Setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, Ah, una pulitina. Hey, oh yeah! We'll be right back. Rock FM si sia dei veri rocker è cosa ben appurata. Sul fatto che anche le parole possano essere rock ci stiamo decisamente lavorando in questa rubrica chiamata Le Parole Ribelli. Sì, che è anche un servizio culturale sì. A favore del radioascoltatore rock che intende farsi una cultura. La cultura a Rock FM, non indugiamo oltre, la prego. La parola ribelle di quest'oggi è pus. Ecco, perfetto, l'idioma pus. Vada! Il pus, tre lettere, P-U-S, certo, pus. Sì, lo sappiamo scrivere, sì. Il pus è un'infiammazione purulenta caratterizzata principalmente, mi segua per favore, da un essudato cellulare granulocitario. Alla faccia! Oggi sono scientifico. I granulociti non vengono lisati durante la reazione infiammatoria e attaccano i tessuti causando un'infiammazione per disfacimento o colliquazione o suppurazione, quest'ultimo è un termine più usato, la suppurazione cellulare. Si forma quindi il pus, che è un essudato caratteristico di questo tipo di infiammazione, cioè un materiale viscoso di aspetto denso e cremoso di colore giallastro. Eccala. Tutti voi Potete fare del resto un esperimento molto semplice. Ovvero? Potete trovare conferma di quanto appena dichiarato spremendovi quel grosso brufolo che avete in qualche modo... Cosa fa, Frick? Ecco, che avete in qualche modo trovato stamattina. No, ecco. Cosa fa, Frick? Una leggera pressione. No, ma non c'è bisogno di... Ma che schifo, per favore, mi levi le mani di dosso, grazie. Guarda, è solo... Guarda, non mi metta le mani addosso, la rubrica sì. È solo per un esperimento altamente scientifico. Guardi, il brufolo è mio, me lo schiaccio io. Grazie mille. No, guardi, si è aperto. No, guardi, perché che schifo! Avrei tanto voluto saperlo, adesso lo so. Grazie. Complimenti, un bello schizzo di pus. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Io devo fare il corista, ci sono storie, mollo la radio, vado a fare il corista per Buddy Holly. È già andato Buddy Holly? Va bene, mi piglierà qualcun altro, insomma. Oh boy, 8 e 11 minuti primi, questa è la follia che si chiama pane, burro e rock and roll. Benvenuti sulle frequenze di Rock FM. A volte mi soffermo a chiedermi, ma perché facciamo certe rubriche? E poi la risposta è semplice, l'ho già confessato nella prima ora di diretta. Siamo dei ragazzi disadattati, abbiamo bisogno delle nostre piccole certezze. Una rubrica dedicata alle immagini via radio, a schierarci contro il preconcetto che non vuole che le foto si possano vedere in radio, è stata la radice della rubrica dedicata ai calendari. Questo è stato il primo passo. Il secondo passo è stata la speranza di farvi vedere per radio donne nude. Speranza che latita, perché continuiamo a mostrarvi uomini nudi. Nella gara di ascolti, probabilmente l'essere gay friendly potrebbe anche aiutarci. Intanto do il benvenuto a un amico che si è chiesto non cosa Pane, Burro e Rock'n'Roll può fare per lui, bensì cosa lui può fare per Pane, Burro e Rock'n'Roll. Abita a Firenze, ha 28 anni e si chiama Federico. Ciao Federico. Ciao Arele. Benvenuto a Rock FM. Grazie. Poche ore di sonno a disposizione di Federico, mi confessava. Sì, esatto. Però un calendario come mamma l'ha fatto. Sì. Allora, trasferiamoci qualche annetto fa. Era il 2003, quando Federico, in compagnia dei suoi compagni di calcetto a 7. Esatto. Eravate forti? Sì, davvero. Ah, sì? Avete... Ci siamo levati diverse soddisfazioni. Ah, sì? Avete vinto qualche premio, qualche trofeo? Si è vinto i nazionali un paio di anni prima del calendario. Alla faccia, ma oltre, oltre a questa soddisfazione, i compagni di squadra di Federico e lui stesso si sono tolti la soddisfazione di fare un bel calendario tutti nudi! Esatto, sì. Allora, caro Federico, a te il compito, come diamo anche ad altri radioascoltatori, di arrapare le nostre radioascoltatrici. Hai scelto un mese in particolare? Sì, quello che mi piace di più è dicembre. Oh, bene, un bello per riscaldare l'inverno dei esatto. vostri fan. Prego, con la descrizione, mi raccomando. Sì, praticamente è l'unico che poi ha come tema anche il calcio. Oh, e lì siamo tutti insieme, perché in altri mesi invece siamo soli. Quindi siete in 7. In 5, diciamo, e perché gli altri due erano dispersi o si vergognavano. Esatto, sì. Si chiama Gang Bang, se non ricordo male. Va bene, no, prego, continua. Sì, praticamente siamo in 4 schierati in barriera come nel calcio vero. Sì. Tutti nudi e con le facce un po' spaventate. Con il portiere. Ti pregherei di soffermarti sulle facce un po' spaventate. Faccio un po' spaventate, sì. Occhi sgranati. Sì, già fisicamente, ecco, non è che siamo il massimo. Cioè, ma come? Siete una squadra di calcetto? Sì, ma i calciatori, diciamo così. Professionisti, dici? Professionisti sì. Hanno dei fisici esagerati. Noi, insomma, mica tanto. Cioè, però ci piace di più così. Va bene, non oso immaginare dove avevate le mani. No, erano a proteggere le zone intime come nel calcio vero, ovviamente. E però il bello è che dietro di noi c'è il portiere che anche lui nudo, ovviamente, sì. In tuffo plastico sì. Afferra il pallone e un avversario qualunque. Ma posso chiederti come sono nascoste le pudenda del portiere? O non sono nascoste? No, sono nascoste dai nostri corpi, sì. Ah, bene. Ma però... siete riusciti a farlo lanciare? Cioè lui è proprio in volo o è una finta? È una finta. Però non fa bene, sì. Senti, nel caso qualche radioascoltatrice fosse rimasta impressionata da questo vostro calendario, ce ne sono ancora copie in circolazione? No, la tiratura è stata limitatissima, infatti sono molto rare quelle stampate, sì. Tra l'altro valgono molto. Sei la seconda testimonianza in diretta di maschi che si sono fatti il calendario, quindi vuol dire che nei rocker questa cosa va. Sì, evidentemente sì. Lancerei l'appello a qualche adesso mi piacerebbe vedere anche qualche radioascoltatrice adesso, non per anche sì. per slegarci un po' da questa cosa dei maschi nudi che non credo ci aiuterà tantissimo. Ma effettivamente un calendario di ragazzi se ne è meglio, insomma, sono più fotogeniche. Federico, grazie mille per il contributo, buon proseguimento di giornata. Grazie. E facci avere una copia, magari la regaliamo a Claudia, magari. Vai, ah sì, a Claudia sarebbe perfetto. Ciao. Ciao. Gentilissimi i nostri radioascoltatori che non hanno paura di nulla. C'è qualche amica che ha fatto un calendario, che ne so, per il moroso? E faccelo vedere sto calendario, no? Black car, the body of the beer, Spanish bomb. for me to yet to quit oh my god I thought Anche i Clash passano a trovarci stamane, Spanish Bombs. L'augurio di una splendida giornata dalla voce dell'Ariele qui negli studi di Rock FM dalle 7 fino alle 9 per quello che è denominato pane, burro e rock and roll. La puntata di quest'oggi, giovedì 25 ottobre, la 117, è una puntataccia, quella che ci ricorderemo, che metteremo lì negli archivi delle musicassette di Rock FM. Grossa tensione c'è nei nostri studi perché sia Frick che il redazionista sono pronti per la canzone dei Beatles in italiano. O io, ragazzi, sto cercando di remare contro, ma oh. Però posso osare dire che quella di oggi un filo l'abbiamo preparata, quindi potrebbe venire bene nel corso della ultima mezz'ora di diretta di quest'oggi. Abbiamo una bella campagna a favore di Ogni Santi, fresca fresca di stampa, che riascolteremo anche questa nell'ultima mezz'ora. Io vi ricordo il 335 100 77 77, è il numero di SMS attraverso il quale potete interagire, raccontarci le vostre storiacce e soprattutto è la linea di contatto per essere ripescati e poi venire in diretta con noi, cosa che io personalmente approvo tantissimo. Mi piace molto la radio fatta dalle telefonate, quindi vi caldeggio. Se avete qualcosa da dire o da fare, proponetevi al nostro numero di SMS. Devo confessare ad Andrea, che ha scritto proprio qualche secondo fa commentando la telefonata del radioascoltatore appena andata in onda, che la sua battuta effettivamente non è male, quindi la giro. E lui commentava: certo che un calendario maschile a tiratura limitata non è molto lusinghiero. Nessuno aveva detto che era tiratura limitata. Sei un maliziosetto, Andrea. Rilassiamoci un attimo, così ci si prepara bene per il test attitudinale. Questa è la Jeff Healy Band, che si cimenta con un meraviglioso brano di George Harrison. Avete 4 minuti per lasciarvi andare e pensare solo alla buona musica. Questa è While My Guitar Gently Weeps. And I see it needs sweeping. padri di famiglia, impiegati, bancari, operai, mi aiuti Frick, mi aiuti. Sì, lavoratori di tutti i settori. Ah, bravo, bravo. I bianchini. Voi che siete là fuori a sì. lavorare. Siete o non siete dei veri rocker? Lo siete o no? Scopritelo, grazie al test attitudinale. Esatto, no. Sappiatelo, fino in fondo. Quest'oggi andiamo a rintracciare una rivista Mojo, la conosce? Mojo, ma naturalmente è una celebre rivista di rock. Esatto, nel 2003 ha pubblicato il risultato di un sondaggio fra i propri lettori inglesi. La domanda era di scegliere il momento più importante della storia del rock. Sapreste dirci qual è stato decretato per l'appunto il momento più importante della storia del rock? Tre possibili soluzioni. Opzione A, la pubblicazione nel 1977 di White Riot dei Clash. È questo il vertice della storia del rock? B, le sedute di incisione di Elvis Presley, Elvis the Pelvis the King, per il suo singolo di debutto That's Alright nel 1954. È forse questo il momento più rock del mondo? Chi lo sa, certo che il 1954, ecco, lo sapevo, è il suo se anno posso di fare nascita, una è molto rock. Considerazione, non certo. Non li aiuti, andiamo avanti. Ipotesi C, l'arresto di John Lennon e Yoko Ono per possesso di marijuana avvenuta nel 1967. Cosa hanno scelto i lettori inglesi di Mojo come momento più rock del mondo? La A, la B o la C? C'è da dire che la risposta, come al solito, ve la diamo dopo. La soluzione a tra poco.